Il tema ci interessa a noi come associazione per una sanità del servizio pubblico, perché cerchiamo di dibattere, almeno di affrontare, non dico di risolvere, perché questi sono temi nei fatti risolvibili, ma almeno di aumentare la consapevolezza tra noi operatori sanitari, chi lavora nel mondo del lavoro e anche i cittadini, che riuscissimo a coinvolgere su questo drammatico tema che viene riassunto come lavoro povero, ma che dietro ha diverse modalità di lavoro, e anche per capire poi quale potesse, potrà essere la modalità di risposta che il servizio sanitario pubblico, con tutte le drammatiche difficoltà che ha oggi, può mettere in piedi per rispondere a queste aree, diciamo, di grande marginalità sociale. Ecco. Siamo cresciuti, stati abituati a pensare che il servizio sanitario pubblico fosse universalistico. C'è qualcosa che è cambiato negli ultimi anni? Ma il tema di oggi è certamente in parte legato a questo, ma prima ancora che le difficoltà del sistema sanitario, che io dico per fortuna oggi stanno venendo agli occhi di tutti, qui c'è proprio un tema sociale. Infatti non a caso la stragrande maggioranza dei relatori ci raccontano come alcune esperienze sono andate avanti nel mondo del lavoro per far sì che questi che chiamiamo lavoratori poveri, o che appunto non sono inseriti all'interno delle dinamiche sindacali eccetera, acquisiscano dei diritti. Tra quei diritti ci sarà, è doveroso che ci sia, anche il diritto a veder tutelata la propria salute, che è ovvio che intanto che il cittadino in quanto tale non esiste, ha diritto a essere trattato solo perché davanti a situazioni di emergenza accederà al pronto soccorso, quello che sia, ma invece ancora non riesce ad avere dei servizi che siano di prevenzione, di presa in carico, come avviene per oggi ancora per i cittadini normali. Sì, infatti in alcune statistiche anche negli ultimi mesi abbiamo visto come ad esempio in Italia appunto molte persone rinuncino a delle cure, rinuncino anche a degli esami, quindi la prevenzione, proprio per questioni economiche. Sì, ci sono dati, e anche noi tanti ne hanno ragionato anche in questa città recentemente. Una parte dei servizi epidemiologici del comune avevano presentato dei dati molto rilevanti tra quali sono i determinanti sociali che incidono sulla salute, e quindi ci sono i quartieri che hanno una popolazione più povera, che hanno anche un'aspettativa di vita più breve, quindi c'è una fotografia, ahimè, impietosa di quanto le condizioni sociali. Qui abbiamo provato a ragionare, a chiedere chi conosce questa realtà, e quindi sia quelli dell'associazione Ritmo Lento che hanno seguito i riders e altri, quindi ci sono sacche, neanche tanto piccole, un po' nei lavori più precari, un po' nella logistica, un po' nei settori che oggi stanno esplodendo e hanno bisogno proprio di essere seguite. Uno dei primi obiettivi che ci eravamo posti, che altrimenti è organizzare gli inorganizzabili. Finché la società non riesce in tutte le sue componenti a capire chi sono, seguirli, far capire che hanno dei diritti, perché questi arrivano convinti di non avere dei diritti e noi non glielo offriamo, poi non si arriva nemmeno al diritto alla salute. Ecco. Già da questa prima anticipazione, insomma, ci hai fatto capire il taglio anche appunto di questo convegno. Vedo che ci sono personalità di diversi mondi, quindi effettivamente non solo quello sanitario. Sì, tant'è che spesso con quelli a cui abbiamo chiesto di venire, anche loro stessi dicevano: ma io non sono uno di sanitario. È esattamente per quello che oggi noi vorremmo capire, un po' come sanità, un po' come, diciamo, contenitore che ha la pretesa di riuscire a parlare appunto a chi non è sanitario, capire quali sono, ragionare insieme, quali sono dei temi appunto che attengono più ai diritti sociali, perché finché un cittadino non esiste è difficile che possa godere di alcuni diritti, uno dei quali è quello alla salute. Quindi il tema poi sarà anche nostro, del sistema sanitario, se esisterà, come riuscirà ad evolvere, come riuscirà ad essere finanziato, ma questo oggi lo lasciamo a margine, di capire come poi prendersi cura di fasce di popolazione che ci sono, è evidente che ci sono, va portato in evidenza che ci sono e che hanno dei diritti da essere garantiti, come per noi tutti. Cioè.